Venerdì 10 novembre qui a Bologna all'Estragon tornano gli ex Otago che un mese fa hanno fatto uscire un singolo, ma in realtà insomma sono tre i singoli usciti negli ultimi mesi. E ne parliamo con il frontman Maurizio Carucci, che è al telefono con noi e che saluto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto Maurizio, come state? Stiamo molto bene, io come la tradizione, immerso in un'influenza che non ha chiesto il permesso. Mi capita sempre, prima di qualche appuntamento importante, tour eccetera, mi arriva sempre la mia influenzina, però okay, io accolgo, perché del resto mi è una volta all'anno, quindi non posso, ecco. È la legge di Murphy. Di meglio, sì. Senti, ma appunto il tour che appunto parte proprio da Bologna. Assolutamente, vabbè, Bologna con l'Emilia Romagna in generale abbiamo sempre avuto un rapporto molto, molto stretto, molto, come dire, amoroso direi, da quando suonavamo nei centri sociali. Mi ricordo a Carpi c'era questo centro sociale molto bello, e poi passando dal Kalinka, insomma mille festival. Diciamo che gli Otaghi hanno, come dire, negli anni hanno costruito questa relazione profonda con questa regione, e quindi ci sembrava anche giusto partire da lì. Devo dire che poi, tra l'altro, le cose stanno andando molto bene. Ora a minuti annunciamo il sold out, sono finiti i biglietti, dai, quindi siamo contenti. Poi è una città che, indipendentemente da tutto, ci è sempre piaciuta molto. Prima di arrivare al presente, faccio un attimo un passo indietro. L'ultimo vostro album risale a 4 anni fa, poi c'è stato un tuo disco solista e poi sono usciti 3 singoli. Come sono stati questi 4 anni? Beh, è una domanda che richiederebbe tipo una mezza giornata, anzi, una mezza nottata con 3-4 belle bottiglie. Però sono stati senza dubbio molto potenti, ecco, molto potenti, ma anche direi molto difficili per alcuni versi. Noi siamo in qualche modo riusciti a sopravvivere, perché non era così banale del resto, e lo dico con grande orgoglio, nel senso che, sai, mi ricordo che in quel periodo, durante la pandemia, tutto doveva tornare immediatamente come prima, no? Tutti speravamo che finisse tutto subito, che per carità è sacrosanto, però appunto magari, ecco, forse ci siamo interrogati poco sul perché è arrivata questa pandemia. E poi, come sempre, prendere posizione, avere delle opinioni è molto difficile, è molto rischioso, e quindi insomma diciamo che per noi è stato un momento molto difficile, perché effettivamente ritrovarsi soli in maniera forzata non è stato proprio un gioco da ragazzi. Però abbiamo anche colto l'occasione per esplorare un po' anche le nostre solitudini, i nostri percorsi individuali, che anche quelli sono importanti. Quindi tutto sommato, da un momento di grande difficoltà, qualcosa di buono è uscito. La fine con te e Mondo Panico sono 3 singoli usciti negli ultimi mesi. Ovviamente questa domanda te la staranno facendo in molti, però anticipano un nuovo album? È un cantiere, un album. Sono 3 singoli che non so se tutti finiranno sinceramente dentro l'album, ma comunque anticipano qualcosa di più costruito e strutturato. Parliamo dell'ultimo uscito, Mondo Panico, che ha una featuring con Fabri Fibra. Ti chiedo, da un lato, come nasce questa collaborazione, e dall'altro, poi nel merito anche del brano, sembra, come dire, una cosa sia personale ma anche politica. Vabbè, allora cerco di rispondere con ordine. Con Fabri Fibra è molto semplice. Vabbè, c'è stima tra me e lui. Come sai, ho collaborato l'anno scorso un pezzo del suo disco, poi è diventato un singolo, eccetera, eccetera. Così con gli Otaghi, una volta che abbiamo scritto Mondo Panico, che ci siamo detti: ma sapete che questo pezzo potrebbe veramente essere giusto per Fabri? Effettivamente eravamo tutti d'accordo, io l'ho mandato, Fabri una risposta: che figata, che bello, buona. È andata veramente così, in maniera molto molto semplice, come nelle migliori occasioni. Per quanto riguarda invece il significato del brano, è chiaro che è un brano politico, anche se, come dire, è molto mediato, no, dalla forma canzone, da canzone pop, però senza dubbio c'è, come dire, c'è un po' anche un urlo, un po' di disperazione anche, se si vuole, perché, come dire, giudicare la propria casa un panico non è proprio il massimo della vita. Panico è il gergo più contemporaneo del termine, no? Quindi di confusione, di paura, però effettivamente è un po' quello che sentiamo, che percepiamo in questo momento, ecco. Siamo in mezzo a parte, come dire, questi costumi a volte insostenibili per noi, questa religione dei numeri, della velocità, dei follower, degli stream, tutto è tutto è fast, tutto è veloce, veramente non siamo così a nostro agio rispetto a queste dinamiche. E in più siamo in mezzo a guerre, crisi climatiche, cioè è un periodo terribile e tutto sommato ci sentiamo anche un po' in dovere di ribadirlo, ma perché io penso che non siamo tutti d'accordo, questa è la cosa più grave. E che comunque, come dire, c'è chi in questo periodo comunque pensa esclusivamente al fatto suo e tutto sommato non pensa, non fa neanche troppo caso, non bada a quello che sta succedendo, e nelle dinamiche attuali magari ci sguatta e ci sta pure bene. Ecco, noi non siamo di questo avviso e quindi ci sembra doveroso, ma non potremo neanche fare altro, nel senso che abbiamo sempre cantato quello che abbiamo visto intorno a noi e continuiamo a farlo, e in questo periodo non possiamo stentare il panico. Prima dicevamo 4 anni dall'ultimo album, però voi avete coltivato anche il rapporto con il vostro pubblico. Leggevo che avete aperto anche un gruppo Telegram. Ma sì, da sempre gli Exatago, come dire, hanno sempre considerato il pubblico come un membro attivo del progetto, no? Il 5° tago, il 6° tago, il 3° tago, il 4° tago quando eravamo in 3. Insomma, quindi abbiamo sempre dato grande rilevanza a ciò che il pubblico ci chiedeva, a ciò che il pubblico piaceva. Mi ricordo nei primi anni, nel 2002-2003, che lanciavamo i Chupa Chupa dal palco facendo morti e feriti, però c'era già un avvicinamento, non so come dire adesso, a quel luogo per noi sacro che è sotto il palco, e continuiamo ad essere così. Quella è una di quelle cose che non è cambiata, ecco. E quindi sì, abbiamo aperto un canale Telegram con cui parliamo con le persone, li informiamo un po' circa i lavori che stiamo seguendo, in anteprima gli mandiamo le cose, proprio una relazione amichevole, quasi parentale direi. Penso che questa cosa non scomparirà mai. Allora Maurizio, io ti ringrazio, ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori del vostro concerto appunto a Bologna, all'Estragon, venerdì 10 novembre. Evviva! Grazie e buona giornata! Grazie a voi, viva Radio Fisica, a presto! Ciao, ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao!